Il signor di Norpois, infatti, era in cattivi rapporti con l'attuale ministero e Madame de Villeparisis, benché egli non si fosse mai permesso di portarle in casa personaggi dell'ambiente governativo, la marchesa aveva pur sempre la sua alterigia di grandama dell'aristocrazia e si teneva al di fuori, al di sopra, delle relazioni che l'ambasciatore era costretto a coltivare. Grazie a lui era comunque al corrente di quel che succedeva. Analogamente, gli uomini politici del regime non avrebbero mai osato chiedere a Norpois di presentarli a Madame de Villeparisis, ma parecchi di loro, quando avevano avuto bisogno del suo sostegno in circostanze critiche, erano andati a cercarlo da lei in campagna. Conoscevano l'indirizzo, andavano al castello, non vedevano la castellana, ma a pranzo la marchesa diceva: «So, signore, che sono venuti a disturbarvi. Le cose vanno un po' meglio?» «Avete ancora un po' di tempo?» chiese Madame de Villeparisis a Bloch. «Ma sì, certo, se volevo andarmene perché non mi sento molto bene. Sembra anzi che dovrò andare a Vichy per certi fastidi alla vescichetta piliare», rispose Bloch, articolando le ultime parole con ironia satanica. «Che combinazione! Anche mio nipote Châtellierault deve andarci. Dovreste mettervi d'accordo. È ancora qui? È un ragazzo simpatico, sapete?» disse Madame de Villeparisis, forse in buona fede e supponendo che, se lei li conosceva tutti e due, non avessero alcun motivo per non legare fra loro. «Oh, non so se gli farebbe piacere, non lo conosco, che di vista!» «Sì, c'è ancora, eccolo là, là in fondo!» disse Bloch, estasiato e confuso. Il maggiordomo, evidentemente, aveva riferito solo in parte il messaggio che gli era stato affidato per il signor di Norpois. L'ambasciatore, infatti, per far credere che arrivava da fuori e non aveva ancora visto la padrona di casa, prese a caso in anticamera un cappello e andò a baciare cerimoniosamente la mano di Madame de Villeparisis, chiedendo le sue notizie con l'interesse che di solito si manifesta solo dopo una lunga assenza. Ignorava che la marchesa aveva preliminarmente destituito di ogni verosimiglianza questa commedia, alla quale, d'altronde, lei stessa tagliò corto accompagnando Norpois e Bloch in un salottino attiguo. Bloch aveva notato tutti i segni di cortesia rivolti a una persona che non sapeva ancora essere il signor di Norpois, nonché i saluti compassati, graziosi e profondi che ne giungevano in risposta, e sentendosi inferiore a quel cerimoniale e offeso dal pensiero che lui non ne sarebbe mai stato il destinatario, mi aveva bisbigliato, per darsi un'aria disinvolta: «Chi è quell'imbecille?» Del resto, poiché tutti i saluti del signor di Norpois urtavano ciò che di meglio vi era in Bloch, l'aspirazione ai modi più franchi e diretti di una società moderna, può darsi che egli fosse in parte sincero nel trovarli ridicoli. In ogni caso, smisero di sembrargli tali e addirittura lo affascinarono non appena toccò a lui, Bloch, diventarne l'oggetto. «Signor ambasciatore», disse Madame de Villeparisis, «vorrei presentarvi questo signore, signor Bloch, il signor marchese di Norpois». Benché lo maltrattasse spesso e volentieri, la marchesa teneva a chiamare Norpois signor ambasciatore, per buona creanza, per eccessiva considerazione del rango di ambasciatore, considerazione inculcatale dallo stesso marchese, e infine per applicare quei modi meno familiari, più cerimoniosi, il cui uso nei confronti di un determinato individuo segnala infallibilmente nel salotto di una donna di classe, contrastando con i modi confidenziali e riservati agli altri abitué che si tratta del suo amante. Norpois immerse il suo sguardo ceruleo nel candore della propria barba, curvò profondamente l'alta figura, come se si inchinasse davanti a tutto ciò che il nome di Bloch rappresentava per lui di ben noto e impressionante, e mormorò: «Molto, molto lieto», mentre il suo giovane interlocutore, Lusingato, ma convinto che il celebre diplomatico stesse esagerando, si affrettava a rettificare: «Ma no, no, al contrario, sono io ad essere lieto!» La cerimonia, che il signor di Norpois, per affetto verso Madame de Villeparisis, rinnovava con ogni sconosciuto presentatogli dalla vecchia amica, non parve tuttavia sufficiente alla marchesa come forma di cortesia nei confronti di Bloch, al quale raccomandò: «Su, via, chiedetegli tutto ciò che volete, appartatevi pure se vi è più comodo, sarà felice di conversare con voi. Se non ricordo male, volevate parlare dell'affare Dreyfus», aggiunse, senza minimamente preoccuparsi che la cosa potesse o meno far piacere a Norpois, così come non le sarebbe mai venuto in mente di chiedere al ritratto della duchessa di Montmorency il permesso di farlo illuminare a beneficio dello storico o al tè di offrirne una tazza. «Alzate la voce quando gli parlate», suggerì a Bloch. «È un po' sordo, ma vi dirà tutto ciò che vorrete. Ha conosciuto benissimo Bismarck, Cavour». «Non è vero, signore», disse forte, «che avete conosciuto bene Bismarck?» «Avete in cantiere qualcosa?» mi chiese Norpois, ammiccando lievemente e stringendomi la mano con cordialità. Ne approfittai per liberarlo garbatamente del cappello che aveva creduto di poter portare con sé in segno di cerimonia, perché mi ero appena accorto che era il mio. «Mi avevate mostrato un lavoretto alquanto arzigogolato, nel quale vi divertivate a spaccare il capello in quattro. Vi ho detto con franchezza cosa ne pensavo. Il gioco non valeva la candela. State preparando qualcosa di nuovo? Siete fanatico di Bergot, se ben ricordo». «Ah, non parlate male di Bergot!» esclamò la duchessa. «Non contesto il suo talento di pittore. È impossibile non avvedersene, duchessa. Sa incidere al bulino o all'acquaforte e forse anche abbozzare, come Cherbuliez, una composizione di vasto respiro. Ma a me sembra che il nostro tempo faccia una gran confusione di generi e che al romanziere pertenga annodare un intreccio ed elevare gli animi, piuttosto che rifinire a punta secca un frontespizio o un coup de lampe. Vedrò vostro padre domenica dal buon Agi», aggiunse rivolgendosi a me. Per un attimo, vedendolo parlare con Madame de Guermantes, sperai che potesse darmi, per penetrare in casa sua, l'aiuto che mi aveva rifiutato con Madame Swann. «Un'altra delle mie grandi passioni», gli dissi, «è il stir. Sembra che la duchessa di Guermantes ne abbia di stupendi, in particolare quello straordinario mazzo di Ravanelli che ho ammirato all'esposizione e che mi piacerebbe tanto rivedere. È un tale capolavoro. E, in effetti, se fossi stato un uomo famoso e mi avessero chiesto qual era il dipinto che preferivo, avrei risposto quel mazzo di Ravanelli». «Capolavoro?» proruppe Norpois in un tono tra stupore e biasimo. «Non ha nemmeno la pretesa di essere un quadro, è un semplice schizzo». Aveva ragione. «Se chiamate capolavoro quel vivace bozzetto, che definizione troverete per la Vergine di Hébert o di Daniel Bouveret?» «Ho sentito che rifiutavate l'amica di Robert», disse Madame de Guermantes a sua zia dopo che Bloch si fu appartato con l'ambasciatore. «Non me ne rammarico certo per voi, è un vero orrore, non ha un filo di talento e per di più è grottesca». «Ma come fate a conoscerla, duchessa?» si stupì il signor d'Argencourt. «Come? Ha recitato in casa mia davanti a tutti, non lo sapete? Non è che ne vada particolarmente fiera», rispose ridendo Madame de Guermantes, felice nonostante tutto, giacché se ne parlava, di poter rivendicare a sé la primizia di quelle ridicolaggini. «Bene, non mi resta che andarmene», aggiunse senza peraltro muoversi. Aveva visto entrare suo marito e la frase appena pronunciata alludeva alla comicità dell'impressione che avrebbero potuto dare d'essere lì insieme in visita di nozze, non certo ai rapporti spesso difficili esistenti fra lei e quel gran pezzo d'uomo che cominciava ad invecchiare ma conduceva sempre una vita da giovanotto. Facendo scorrere sul folto gruppo di persone raccolto intorno al tavolo da tè Gli sguardi affabili, maliziosi, un po' abbagliati dal fulgore del tramonto, delle sue piccole pupille tonde, situate esattamente al centro dell'occhio come le mosche che sapeva avvistare e colpire così infallibilmente da quell'eccellente tiratore che era, il duca avanzava con una lentezza stupefatta e guardinga, come se, intimidito da una folla tanto brillante, temesse di camminare sui vestiti o di disturbare le conversazioni. Il sorriso perpetuo da buon re di fiori, leggermente in cimbali, la mano semipiegata, oscillante a metà petto come la pinna di un pesce cane e lasciata indistintamente a disposizione dei vecchi amici come del primo sconosciuto che gli venisse presentato, gli permettevano di soddisfare lo zelo di tutti i presenti, senza dover fare un solo gesto né interrompere la sua passeggiata bonaria, oziosa e regale, limitandosi a mormorare: «Buonasera, caro, buonasera, amico mio, lieto, signor Bloch, buonasera, Argencourt». E, arrivato a me, che ricevetti il trattamento di maggior favore, udito che ebbe il mio nome: «Buonasera, caro vicino, come sta vostro padre?» «Gran brav'uomo», aggiunse per lusingarmi. Fece grandi feste solo a Madame de Villeparisis, che lo salutò con un cenno del capo e fece scivolare una mano da sotto il grembiule. Immensamente ricco, in una società dove lo si è sempre meno, il duca aveva associato in modo permanente alla sua persona la nozione del suo enorme patrimonio, accoppiando alla vanità del gran signore quello dell'uomo danaroso, e l'educazione raffinata del primo riusciva appena a raffrenare la sicumera del secondo. Non ci voleva molto, d'altronde, a capire come il suo successo con le donne, che faceva l'infelicità di sua moglie, non dipendesse solo dal nome e dal patrimonio, perché era ancora molto bello, con qualcosa nel profilo della purezza e fermezza di linee di un dio greco. «Davvero ha recitato in casa vostra?» chiese il signor d'Argencourt alla duchessa. «Ma si capisce, è arrivata con un mazzo di gigli in mano e una gonna con su altri gigli». Madame de Germain ostentava, come Madame de Villeparisis, certi modi di dire o giri di frase molto contadini, sebbene non arrotasse la R come sua zia. Prima che il signor di Norpois, costretto a viva forza, conducesse Bloch in disparte per conversare con lui, mi avvicinai ancora un momento al vecchio diplomatico e gli accennai al seggio accademico per mio padre, ma gli obiettai che stavo per andare a Balbec. «Come? Di nuovo a Balbec? Ma siete un autentico globetrotter!» Finì col darmi ascolto. Quando feci il nome di Leroy Beaulieu, mi guardò con aria sospettosa. Immaginai che, avendo detto a Leroy Beaulieu qualcosa di sfavorevole sul conto di mio padre, temesse che l'economista gliel'avesse riferito. Immediatamente apparve animato da sincero affetto per mio padre, e dopo uno di quei rallentamenti del discorso da cui una parola esplode all'improvviso, come contro la volontà di chi parla, e quasi che un'irresistibile convinzione travolgesse in lui gli sforzi balbettanti che faceva per tacere, «No, no», mi disse con slancio, «vostro padre non deve presentarsi, non deve nel suo interesse, per se stesso, per rispetto al suo valore che è grande e che sarebbe messo a repentaglio in una simile avventura. Vostro padre vale più di questo. Anche se ottenesse la nomina, avrebbe tutto da perdere e niente da guadagnare. Grazie a Dio non è un oratore, ed è la sola cosa che conti presso i miei cari colleghi, a costo, magari, di dire delle scempiaggini. Vostro padre ha una missione importante nella vita. Quella è la strada che deve percorrere, senza mai uscire di carreggiata, senza lasciarsi tentare da prati e cespugli, fossero anche quelli, d'altronde credetemi, più spinosi che fioriti, dei boschi d'Academo. D'altronde non metterebbe insieme che una manciata di voti. L'Accademia si compiace di sottoporre il postulante a un lungo tirocinio prima di ammetterlo nel suo girone. Adesso come adesso non c'è niente da fare. Più tardi non è detto, ma bisogna che sia la stessa compagnia ad andarlo a cercare. Essa pratica più con feticismo che con felicità il farà da sé dei nostri vicini d'Oltralpe. Leroy Beaulieu m'ha parlato di tutta la faccenda in un modo che non mi è piaciuto. Mi è parso del resto così a lume di naso, già in parola con vostro padre, no? Gli ho fatto capire, con una certa vivacità, temo, che è abituato a occuparsi di cotoni e di metalli, sottovalutava il ruolo degli imponderabili, come diceva Bismarck. La cosa da evitare a tutti i costi è che vostro padre si presenti. Principis obsta. I suoi amici verrebbero a trovarsi in una situazione delicata se egli li mettesse di fronte al fatto compiuto. Ecco, proseguì bruscamente con accentuata franchezza, fissando su di me i suoi occhi cerulei. Vi dirò qualcosa che vi stupirà da parte di una persona che vuole tanto bene a vostro padre. Ebbene, proprio perché gli voglio bene, siamo i due inseparabili, vostro padre ed io, Arcade Sambo. Proprio perché so quali servizi egli può rendere al paese, gli scogli che può evitare a tutti noi se rimane al timone, per affetto, per altissima stima, per patriottismo, io non gli darei il mio voto. Del resto penso d'averlo fatto capire. E mi parve di scorgere nei suoi occhi il severo profilo assiro di Leroy Bonlier. Insomma, votare per lui sarebbe da parte mia una sorta di palinodia. A varie riprese, Norpois parlò dei suoi colleghi come di vecchi fossili. A parte altre possibili ragioni, ogni membro di un club o di un'accademia ama attribuire ai suoi colleghi il carattere più diametralmente opposto al suo, meno per l'utilità di poter dire «Ah, se dipendesse solo da me», che per la soddisfazione di poter presentare il titolo ottenuto da lui stesso come più arduo e più lusinghiero. «Vi dirò», concluse l'ambasciatore, «che nell'interesse di tutti voi preferisco per vostro padre un'elezione trionfale fra 10 o 15 anni». Parole che giudicai dettate, se non dalla gelosia, perlomeno da un'assoluta mancanza di disponibilità, e che acquistarono in seguito, alla luce stessa degli eventi, un senso affatto diverso.